La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Buon sabato a tutti, buon cinema a tutti, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Siamo in mezzo alla laguna, non noi, ma il Festival di Venezia, la mostra del cinema numero 72. Sì, a Lido di Venezia si sono aperte le danze della più antica kermesse cinematografica del mondo, come sempre piena di spunti di interesse, di film, di registi da scoprire, anche di star più o meno affermate o più o meno in cerca di gloria che calcano il red carpet veneziano. Noi ne parleremo diffusamente durante questa puntata, che è un po' tutta da lì, perché fra poco ci collegheremo con Boris Sollazzo, che ci racconterà invece i film che potete vedere in questa prima settimana di settembre sugli schermi d'Italia. Ma subito ci colleghiamo con un altro amico e collega di questa trasmissione, collega della stampa scritta per quanto concerne la critica cinematografica, Gianluigi Negri, che è già in collegamento con noi dal Lido. Ciao Gigi. Ciao Franco, buona giornata a tutti. Allora, parliamo un po' di questi primi giorni, parliamo un po' di questa Venezia che si è affermata ancora una volta sotto la guida di Alberto Barbera, un direttore che sembra sempre più insostituibile, anche per la capacità di variare all'interno dei programmi. Negli ultimi anni ci aveva abituato, come sempre, a un mix di blockbuster di qualità e di cinema di scoperta, diciamo così. Non a caso nelle ultime due edizioni, tanto Gravity quanto l'anno scorso Birdman, che avevano aperto il festival, sono arrivati in quota Oscar in maniera abbastanza poderosa. Quindi la capacità di guardare da quella parte, ma anche la capacità di fare un palinsesto che stimoli, che dica cose nuove rispetto ai linguaggi e alle tematiche cinematografiche. Quest'anno addirittura con 15 registi tra i 21 che concorrono alle Ore d'Oro, per i quali la prima volta a Venezia è proprio quest'anno, cioè 15 registi debuttanti a Venezia, anche proprio per dire un'altra cosa, per dire che i festival non devono poi anchilosarsi attorno ai soliti nomi che girano, ma devono cercare il nuovo che avanza, diciamo così, con un'espressione un po' anni 80, laddove c'è. Hai ragione, Barbera è uno che guarda lontano, è uno che è stato in grado di aprire i festival con le anteprime che tu prima hai citato, Gravity due anni fa e Birdman lo scorso anno. Quest'anno ha scelto di aprire con Everest, per cui ha portato il festival sul tetto del mondo, no? Con le cime tempestose, avventura che è sostanzialmente una lotta per la sopravvivenza, una scalata il cui esito purtroppo è segnato fin dall'inizio. Però parlavi giustamente anche dei 15 giovani o dei 15 esordienti o dei 15 alla loro prima volta. Anche questo è un segnale di coraggio, è un segnale di un festival in movimento, è un segnale di un festival che non rimane fermo, che guarda avanti, e si deve confrontare anche con le nuove forme di fruizione del cinema, che oggi si può, per noi che siamo della vecchia scuola, direi ai noi vedere anche su un tablet o su uno smartphone, per chi è più giovane di noi o di me, questo è un segnale anche forse di vivacità del cinema, no? In questo senso però, dicevo, Barbera è stato bravo, coraggioso anche a mettere in concorso quattro italiani. Lo accuseranno magari di campanilismo, ma quattro italiani in concorso in un festival del cinema di Venezia non si ricordavano francamente da anni. Fra le cose che hai visto in questi primi giorni, tu adesso accennavi allo sbarco di nuovi formati, di nuovi modi di fruizione del cinema. Fra questi c'è sicuramente Netflix, che arriverà a metà ottobre in Italia con la sua valanga di produzioni anche autonome ma di grandissimo livello, pensiamo ad House of Cards, tanto per dirne una, nei nostri computer, e quindi rivoluzionerà assolutamente il nostro modo di fruire la televisione. Vedrete che in poco tempo le cose non saranno più le stesse, però sa produrre anche cinema di alta qualità e di alto impatto, come è successo con un film che racconta i bambini soldato in Africa, proprio lì a Venezia. Questa è una storia davvero interessante. Il film si intitola Beast No Nation, Le Bestie Senza Nazione, ed è diretto da Cary Fukunaga, che al grande pubblico in apparenza non dice nulla, in realtà è il regista della prima stagione di True Detective. In questo caso passa dalla HBO a Netflix, Netflix produce il film, notizia che c'è il grande sbarco di Netflix al Lido, Netflix sbarca direttamente in concorso, il protagonista è Idris Elba, attore di colore per il quale a lungo si è parlato di una sua possibile interpretazione del ruolo di James Bond. Bond, anche se la produzione lo ha scaricato dicendo Idris Elba è Potamarro. Idris Elba è anche conosciuto per le sue notti folli, fa anche il DJ, non solo l'attore, ma lo hanno scaricato ancora presto per avere un James Bond di colore, e vedremo Daniel Craig se deciderà di continuare a interpretare il personaggio oppure no. E comunque, insomma, questo arrivo al Lido di Netflix è importante, e questo film lo si potrà vedere, hai detto bene tu, dal 16 ottobre già sulla piattaforma Netflix, che rivoluzionerà il nostro modo anche di vedere il cinema a casa. Ecco Gianluigi, hai parlato di star già in questo cast, ce ne sono molte anche in un altro film che ha fatto molto discutere in questo avvio di Venezia, si chiama Spotlight, e racconta con i criteri dell'inchiesta giornalistica americana, un po' alla Tutti gli uomini del presidente, per intenderci, cioè I tre giorni del Condor, racconta l'inchiesta che ha fatto molto scalpore, quella sull'arcivescovo di Boston accusato di aver coperto i casi di abusi di pedofilia della chiesa sui minori. Anche qui un cast tutte stelle, che parte da Mark Ruffalo e va a Stanley Tucci, Michael Keaton, Rachel McAdams, regia di Thomas McCarthy, per un film che sa stare, mi sembra di poter dire, dentro quell'alveo del cinema di indagine, di impegno civile americano, senza però essere troppo manicheo, senza dividere troppo in buoni e cattivi. Hai perfettamente ragione, Franco. Il film si intitola Spotlight e hai ricordato giustamente il nome del regista, Thomas McCarthy, che è il regista dell'Ospite inatteso. Qui si parla di l'inchiesta del 2001, condotta in realtà tra il 2001 e il 2003 dai giornalisti del Golden Globe di Boston, un'inchiesta che ha rivelato lo scandalo degli abusi sessuali compiuti dai membri della Chiesa Cattolica nei confronti di bambini, per cui si parla di un tema scottante come la pedofilia. La cosa drammatica che ha sollevato anche polemiche è che il vescovo responsabile della diocesi di Boston alla fine venne trasferito in Vaticano, e tutt'oggi è in Vaticano, e tu pensa che vennero individuati addirittura in una città come Boston addirittura 250 preti pedofili, una cosa enorme. E la ricostruzione di questo scandalo avviene con i ritmi serrati del cinema americano. Allora, giustamente prima si era parlato di Oscar e dell'intuito o del fiuto del direttore Alberto Barbera nell'andare a scovare quei film che potenzialmente potranno piacere ai membri dell'Academy, che poi assegnano le fatidiche e le tanto agognate o desiderate statuette. Allora, forse più che Everest, quest'anno in odore di Oscar si potrebbe dire ci sarà Spotlight. Dopo Gravity, dopo Birdman, Spotlight potrebbe essere uno dei film che rientrerà nel giro delle nomination, perché ha tutte le caratteristiche, per piacere. E qui al Lido sono sbarcati, non c'è quest'anno Michael Keaton, c'era lo scorso anno, sono sbarcati però facenti parte di questo cast, ma Mark Ruffalo, è importante ricordarlo, e Stanley Tucci che interpreta un avvocato, come sempre un po' alla sua maniera, no? Stanley Tucci è un attore che mette molto del suo vissuto e molti vezzi d'attore, però è un attore adorabile, spesso è uno che fa notare la sua presenza perché ha un grande stile, insomma, alle volte potrebbe sembrare maniera, in realtà è proprio la sua impronta, il suo marchio, il suo essere grande attore. Ed è sempre uno dei motivi per cui uno va a staccare un biglietto per andare al cinema, Stanley Tucci. Sì, Gianluigi, esatto. Rimani con noi, perché adesso, dopo la viabilità, ti chiediamo invece che cosa ci aspetta nella seconda settimana, perché ci sono ancora tante cose da dire su Venezia 72. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qua, seconda parte della Rosa Purpurea. Ancora un attimo sul Festival di Venezia, sulla Mostra del Cinema di Venezia, prima di passare alle novità in sala in questo fine settimana, sempre con Gianluigi Negri, critico della Gazzetta di Parma, ma nonché direttore di una kermesse che si sta affermando in poco tempo come Mangia Cinema di Salso Maggiore, della quale tra l'altro questo programma è fra i sostenitori. Ne abbiamo parlato lo scorso anno, ne parleremo anche quest'anno, ve lo possiamo già annunciare, mandando un po' di nostri ascoltatori a Salso Maggiore a divertirsi fra cene di gala e weekend alle terme. Ma all'inizio di ottobre, anzi meglio alla fine di settembre, saremo più chiari su tutto. Gianluigi, torniamo su Venezia, quattro film italiani in concorso, dicevamo, ce li puoi snocciolare velocemente, tanto per farci un'idea di cosa ci aspetta? Allora, Piero Messina, debuttante, classe 1981, ha presentato al Lido L'Attesa, una storia nella quale la protagonista è una donna, Anna, una impenetrabile matrona siciliana, e non vi dico altro. Secondo film italiano invece che arriva in concorso, arriva domani, domenica, ed è diretto da Luca Guadagnino, un regista italiano che spesso lavora con attori di fama internazionale. Non a caso la sua protagonista è la sua musa, la protagonista di A Bigger Splash è la Tilda Swinton, che fu la protagonista del suo esordio, The Protagonists, diversi anni fa proprio qui a Venezia, e in questo cast Guadagnino mette davanti alla macchina da presa, ispirandosi liberamente al classico di Jacques Derrida La piscina, dicevo, mette davanti alla presa attori come Ralph Fiennes, Dakota Jones, la protagonista di 50 sfumature di grigio per capirci, e Matthias Schoenaerts, che è l'attore di Un sapore di ruggine e ossa, attore belga straordinario. C'è grande attesa, ci sono grandi aspettative nei confronti di A Bigger Splash. Le aspettative, secondo me, ancora più alte sono per il terzo italiano in concorso, che è Marco Bellocchio. Marco Bellocchio arriva al Lido dopo le delusioni intese in senso di premi non ricevuti, i film per me erano straordinari, dopo le delusioni per i premi non ricevuti relative a Buongiorno Notte e a Bella Addormentata, questa volta torna al Lido in concorso con Sangue del mio sangue, ed è la storia di una nobile che nel XVII secolo decide di farsi suora. È ambientato nella sua Bobbio, è un film con una protagonista femminile fortissima, Marco Bellocchio ha 75 anni, secondo i si dice sembra in odore di Leone d'Oro, insomma, raccogliendo qualche indiscrezione, pare che questo film sia piaciuto tantissimo al direttore della mostra, Alberto Barbera. L'ultimo italiano in concorso è il vero autore da festival, è Giuseppe Gaudino. Di solito purtroppo le sue opere non hanno grande visibilità al cinema, però la cosa importante da segnalare di questo film che chiuderà il concorso nella giornata di venerdì della prossima settimana è la presenza nel cast di Valeria Golino, ed è la storia di una donna sposata a un usuraio ma circondata dall'affetto di figli meravigliosi, tra cui uno con dei problemi perché è un ragazzo sordomuto, per cui grande pattuglia di italiani al Lido. Insomma, veramente anche qui non vediamo l'ora di vederli, perché tutti hanno dei motivi di interesse, se vogliamo. Da una parte hai detto giustamente nel film di Messina la presenza di Juliette Binoche, in Guadagnino, che io ho adorato nel suo Io sono l'amore, la capacità di un regista di, come dire, far avere un taglio internazionale, davvero internazionale, nei suoi film, nella sua regia, Per amor vostro di Gaudino, perché vediamo un film dei tempi nostri, però ispirato a Un canto dell'inferno di Dante, e per Bellocchio, perché Bellocchio è Bellocchio, insomma, perché il film è veramente molto promettente. Allora, giusto per chiudere, Gianluigi Negri, il tuo film atteso di questo Festival di Venezia? Stranamente attendo il ritorno di Atom Egoyan, regista armeno canadese che adoro ma che è reduce da alcune prove deludenti, ed è in concorso con un film che si intitola Remember, tra i protagonisti c'è Christopher Plummer, è un film che attendo. Mi incuriosisce, se posso, in un secondo anche il nuovo film di Amos Gitai, sempre in concorso, si intitola Rabin, The Last Day, ed è la storia dell'uccisione di Rabin, quando 20 anni fa veniva ucciso da un colono della destra nazionalista laica, e Amos Gitai si sofferma nel ricostruire gli eventi di quel maledetto giorno e soprattutto si basa sui verbali del processo, per cui 20 anni dopo l'assassinio del premier Yitzhak Rabin, rivisto e filmato, raccontato da un grande regista, anche se discontinuo, come Amos Gitai. E allora, benissimo, Amos Gitai, aggiungo in Remember anche la presenza di un mio mito assoluto come Martin Landau, il comandante Koenig di Spazio 1999, quindi, come dire, come non ricordarlo. Gianluigi Negri, Gazzetta di Parma, ma soprattutto Mangia Cinema, il festival del cinema e del gusto, diciamo così, che si terrà a Salso Maggiore all'inizio di ottobre. Come dicevo, avremo tempo di parlarne entro la fine di settembre, perché manderemo un po' di nostri ascoltatori da quelle parti. Grazie Gianluigi per averci raccontato un po' il mood veneziano dalla Laguna, e ci risentiamo presto. Grazie Franco, buongiorno a tutti. Allora, prima di passare alle novità in sala con Boris Sollazzo, che è comunque collegato anche lui da Venezia, sono tutti a Venezia questa settimana, andiamo a giocare insieme, come sempre, come facciamo, come abbiamo ricominciato a fare settimana scorsa, due tracce, due frammenti di film da riconoscere per provare a vincerli. 7 anni fa mi sono trasferito in Normandia e ho riaperto il panificio di mio padre. Finalmente qui ho trovato la pace e la tranquillità. C'è un panificio, c'è la Normandia, c'è quindi la Francia. Cominciate a pensarci se avete già indovinato di che film si tratta. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in DVD di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Boris Sollazzo, ci sei? Certo che ci sono, certo. Poco fuori dalla sala d'arsena. Eccolo lì, anche lui in mezzo alla laguna per la 72esima mostra del cinema. Parlavamo prima con Gianluigi Negri della Gazzetta di Parma, Boris, di un festival che insomma ha saputo mischiare coraggio, perché 15 registi alla prima volta in concorso non sono pochi su 21, che come sempre ha saputo guardarsi in giro e che mi sembra anche una certa area di cinema americano anni 70, perché fra Spotlight, di cui abbiamo parlato, e Black Mass c'è insomma quasi un fil rouge di riguardarsi indietro quel grande cinema di inchiesta civile americana che è stato uno dei capisaldi a livello proprio di genere negli anni 70 e 80. Assolutamente verissimo, vero il coraggio, fino adesso tra l'altro è uno degli inizi migliori di Venezia, che io ricordi non c'è stato il cosiddetto botto come c'era stato ovviamente con Birdman e Gravity, che addirittura erano arrivati all'Oscar. Forse il film più deludente è proprio Everest, però sia tra fuori concorso che tra concorso troviamo molte cose interessanti, e appunto è molto curioso come sia Spotlight sia Black Mass sembrano veramente presi di peso dagli anni 70. Sembra essere soprattutto tornata la moda, per fortuna, di una scrittura, di una sceneggiatura molto serrata, molto curata, molto potente, quasi che non servano attori e registi. Spotlight forse ne è proprio la dimostrazione, nel momento in cui Mark Ruffalo non regala una performance straordinaria quasi non te ne accorgi comunque, quindi molto interessante come si torni indietro e allo stesso tempo però si guardi al futuro, perché come dicevi tu la bellezza di tre quarti dei registi in concorso sono al loro esordio. E ma noi guardiamo anche al presente, perché dobbiamo anche dire alla gente cosa c'è in sala da vedere. Boris, non ci sottraiamo alla nostra missione, e allora cominciamo dal pugilato, cominciamo da Southpaw, l'ultima sfida, cominciamo da Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, tanto per ricitare anche nomi e facce che si sono viste e si vedranno dalle parti di Venezia. Ascoltiamo la clip. Ecco a voi il campione del mondo dei medio massimi, Billy Ho! Non puoi più combattere così. Non ci pensi a lei. Non sarei qui senza mia moglie Maureen. Bellezza, lo vuoi provare, un vero uomo? Lascialo stare, andiamo a casa. La cintura me la prendo io. Billy, no! Guardami negli occhi. No. La custodia legale della bambina sarà affidata ai servizi sociali finché il padre non si dimostrerà un genitore responsabile. Ti darò tutto me stesso. Il tuo destino è nelle tue mani. Vero e proprio genere cinematografico quello del film sul pugilato. Chiaramente, al di là dei Rocky, dei Toro Scatenato, dei Cinderella Man, sono decine, centinaia i film che hanno raccontato la nobile arte come una metafora della vita, come del resto è davvero, lo fa anche questo Southpaw, che è partito anche abbastanza bene ai botteghini italiani. Boris, cosa aggiunge a una dinastia di film che sembra aver già raccontato quasi tutto di questo sport e della metafora della vita che rappresenta? Ecco, ad aggiungere, forse aggiunge solo, e non è poco, una macchina da presa davvero sul ring. Una macchina da presa che forse per la prima volta non si accontenta di ricostruire un balletto all'interno del ring, perché box e calcio sono forse gli sport più difficili da riprendere al cinema, ma ti porta a prendere i pugni te stesso, è quasi in 3D pur non essendolo. Si fa fatica a non sentirsi addosso i pugni che questo incassatore straordinario, che è il protagonista, questo mancino molto particolare nello stile di combattimento, riceve per poi restituirli al momento giusto. Questa è l'unica cosa bella, soprattutto per i cultori del genere, che aggiunge. Per il resto è davvero la summa del cinema pugilistico più classico. Metti il carattere di Rocky, la storia di Toro Scatenato e infine mettici un po' di Tyson tutto attorno e avrai Southpaw di fatto. La storia di un ragazzo che cresce nella periferia, cresce male, è costretto a fare a pugni, è costretto spesso a fare a pugni per sopravvivere e a cui lo sport salva la vita, incredibilmente imbattuto nonostante probabilmente sia il pugile della sua generazione, ovviamente è tutto di finzione, che ha preso più pugni, ma è anche quello che ha saputo mettere KO tutti coloro che lo hanno picchiato. E questo porta a Southpaw con un Jake Gyllenhaal che davvero si conferma un attore pazzesco, è di fatto quasi un one man show. Senza un Jake Gyllenhaal così in forma non avremmo avuto, come spesso capita ai film di Jake Gyllenhaal, lui è spesso migliore dei film e dei registi che lo scelgono, che riesce a tirarsi addosso questo personaggio preparandoselo fisicamente, quasi non lo riconoscerete nella sua struttura fisica, preparandoselo anche nella mimica, rendendo credibile un personaggio sopra le righe e portando avanti, incassando e restituendo i pugni anche metaforicamente, anche nel cinema, un ruolo che sarebbe stato difficile per chiunque altro, troppo sopra le righe per chiunque altro, perché poi anche il fatto di crearsi attorno a questo clan, di trovarsi da solo, e devo dire che trovo un'efficace spalla in Forest Whitaker, che nella struttura del film ha un personaggio d'appoggio, un personaggio persino facile, ma a cui lui dà un'umanità particolare, e quando arriva lui Rocky si sente moltissimo. Southpaw quindi forse non è il film migliore del genere, ma per chi ama i film sulla box sicuramente non ci sarà delusione. E allora, questo è Southpaw. A questo punto noi diamo la linea alla regia. Boris, rimani con noi perché fra poco parliamo di un altro dei film che sono usciti in questo fine settimana, si intitola The Visit, è un esperimento molto molto interessante di una sorta di fantascienza sociologica. Fra poco La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, terza parte, ancora i film in sala, i film che potete vedere in questo primo weekend di settembre. Io tra l'altro vi voglio anche dire che domani, domenica, non ci sarà la solita replica della nostra trasmissione, ma alle 14 saremo in onda in diretta da Cibus a Expo, e quindi una puntata tutta nuova della Rosa Purpurea, ancora con ospiti diversi, ancora dedicata un po' alla Festival di Venezia, con collegamenti, insomma, chi ci ha sentito oggi non pensi di essersela scampata così. Domani siamo ancora con voi qua a Radio 24. Allora, dicevo, The Visit è un film piuttosto interessante, diretto da Michael Madsen, che prova a fare un esperimento di fantascienza sociologica. Si intitola The Visit appunto Un incontro ravvicinato, e sostanzialmente prova a rispondere a una domanda: cosa succederà quando un giorno saremo di fronte al famoso alieno, alla famosa civiltà extraterrestre che da secoli stiamo cercando, intanto stiamo cercando di capire se c'è o non c'è, ma insomma stiamo raccontando incontri possibili. Se un giorno quell'incontro diventasse reale, cosa farebbe l'umanità? È un evento del tutto senza precedenti. Quanto meno sappiamo, più la paura della gente aumenterà. Quindi stiamo parlando di un'astronave con vita intelligente. Inizio a dubitare di ciò che vedo. Boris, allora, esperimento interessante questo di Michael Madsen, perché cerca di mischiare in maniera esplicita, sin dall'inizio allo spettatore, una serie di what if, cioè cosa succederebbe se... e ci sono tante declinazioni di questo se, però una storia di fantascienza vera, diciamo così, reale, di un astronauta che fa delle cose, che porta avanti l'azione, nel film c'è. Beh, assolutamente sì, e fare una docufiction, quindi comunque strutturarla come un documentario anche di approfondimento su qualcosa che in teoria si dà per avvenuto e ovviamente non è successo, è già di per sé un esperimento a mio parere straordinario, che viene da qualcuno da cui forse non te l'aspetti come Michael Madsen. E The Visit è in questo momento storico, no? In cui ci si deve per forza confrontare con il diverso da te, con una società che considera alieno ed extraterrestre chiunque non venga addirittura dal proprio paese, vedere un regista e gustarsi un film che racconta come il diverso per eccellenza, ovvero l'alieno, arrivi nel mondo, è davvero molto interessante. Il film appunto è strutturato come se fosse un documentario, quindi una fantamoquimentary se vogliamo, e si sviluppa su due piani paralleli. Da una parte addirittura l'approfondimento, come dicevi tu, sociologico ma anche scientifico, interpellano delle persone informate dei fatti, scienziati, sociologi, per capire qual è l'impatto di un incontro del genere. E dall'altra parte appunto c'è la storia, che è una storia particolare, ed è molto affascinante come un genere come la fantascienza, che si fonda sulla sospensione di credulità, chieda invece allo spettatore di credere fermamente a ciò che è successo, di darlo per assodato e di ragionare su questo aspetto. Il film riesce, secondo me, alla fine, è qualcosa di molto interessante, soprattutto per gli appassionati di fantascienza sarà un modo molto intelligente e molto particolare di rientrare in un altro modo, da un'altra angolazione, da un ingresso secondario nel genere in questione. Forse l'unico difetto è che non può, proprio perché effettivamente questo incontro non c'è stato, almeno a oggi non ne sappiamo nulla, deve poggiarsi su qualche piccola banalità, su qualche metafora un po' troppo evidente e inevitabilmente risulta ripetitivo in alcuni dei suoi passaggi, ma nel complesso è un esperimento molto molto interessante che vi consiglio di seguire, anche perché non si sa mai, magari fra qualche anno arrivano gli alieni, avendo visto The Visit sarete un pochino più preparati. E noi ci siamo portati avanti, giustamente siamo pronti. Allora, The Visit nei cinema italiani, esperienza interessante questa di Michael Madsen, che è regista da seguire. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Questa è la Francia, Charlie. Io sono io. Io sono libera. Io posso essere felice. C'è una mitizzazione della Francia, avete sentito, c'è la libertà, una donna che vuole affermarsi. Che film è? Un film uscito lo scorso anno, nella scorsa stagione, in Italia, un film che, lo dico anche così per darvi un ulteriore aiutino, insomma, ha aperto il Festival Internazionale del Cinema di Torino dello scorso novembre. Allora, la Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci il titolo e provate a vincere una delle due copie che riveleremo la prossima settimana. Torniamo a Venezia, torniamo da Boris Sollazzo e ci torniamo anche con un film che è a Venezia alle Giornate degli Autori, che si intitola Storie Sospese e che esce questo fine settimana nei cinema italiani. A noi è sempre stato detto che avreste costruito un tunnel. Non ci avete mai detto che avreste distrutto il paese. Ma non dici niente? Sono qui per lavorare. La giustificazione che si usa quando si fanno le porcate. Mi sembra che stai esagerando. Io con Alessandro su quella parete non ce la faccio. È pericoloso. Ma che ti ci metti pure tu? Tu c'hai moglie e figli. Domani mattina va al cantiere e fatti i cazzi tuoi. C'è un mondo ad alta quota anche in questo film, in questo Storie Sospese di Stefano Chiantini con Marco Giallini, avete sentito l'inconfondibile voce nel trailer, un gruppo di rocciatori che lavorano appunto in alta quota per mettere in sicurezza dalle frane, un incidente, un compagno che muore e una vita che cambia, perché per il personaggio di Marco Giallini si apre la disoccupazione da una parte, una famiglia da mantenere dall'altra. e dei lavori, come dire, anche poco graditi da accettare a questo punto a tutti i costi. E lì si apre una seconda parte, potremmo dire, del film, che è inerente a tutte quelle situazioni di ostacolo e di negazione anche di opere pubbliche che in Italia avvengono. Pensate appunto a tutta la situazione sulla TAV, piuttosto che ogni tipo di lavoro in Italia ha un po' sempre un fronte del no, che non vorrebbe questo tipo di lavoro. In questo caso, per ragioni anche abbastanza evidenti, perché questo tunnel che si sta costruendo potrebbe mettere a rischio una piccola comunità montana di un paese dell'Abruzzo. Boris, anche qui c'è il tentativo da parte di Chiantini di raccontare un momento della realtà, cioè quello appunto delle ragioni di chi si oppone all'incedere di opere pubbliche, però a mio modo di vedere la cosa riesce piuttosto male, insomma, i due momenti del film sono poco legati e trovo che sia un film che non ha mai avuto durante il suo sviluppo un vero scarto narrativo in avanti, un vero momento drammaturgico forte attorno al quale dare una svolta anche allo spettatore che lo sta guardando. Sono veramente d'accordo. Prima con The Visit parlavamo di una docu-fiction, qua potremmo definirla una fiction docu, e non è solo un gioco di parole, nel senso che alla fine il cartello finale, non c'è nessuno spoiler, ci rivela che quello che è stato raccontato si innesta su un episodio reale, e la prima domanda che arriva dopo il cartello fine è proprio quella: perché non se n'è fatto un documentario? Cosa ha aggiunto la finzione rispetto a quel racconto? E purtroppo, nonostante la presenza di brevissimi attori, a me fa molto piacere il ritorno di Sandra Ceccarelli, che è un'attrice straordinaria, o la presenza come coprotagonista di Alessandro Tiberi, che è un interprete molto sottovalutato, giovane, che meriterebbe più spazio, e vale comunque il buon giudizio anche per Marco Giallini, che ben indossa le parti di un montanaro molto ruvido, che sarebbe stato bene in Everest, ecco, più che in questo film, se vogliamo fare una battuta. Giorgio Colangeli è la solita certezza, però non bastano dei buoni attori per poi fare il film, perché come dici tu, Chiantini non fa mai uno scarto in avanti, ma neanche di lato, non riesce mai a raccontare o la storia che voleva o di farci entrare all'interno del dramma di questi personaggi comunque spezzati, no? Da questo traforo che gli sta togliendo l'identità, che gli sta togliendo il luogo che amano da una parte, e dall'altra di uomini, di ragazzi che non riescono a fare una scelta, la scelta giusta, che rimangono come quella galleria, sempre in uno stato di lavoro in corso. Sono bravi gli attori, però regia e sceneggiatura non sono mai capaci di percorrere una strada autonoma rispetto alla storia, si fanno mangiare da questa visione anche un po' ideologica del fronte del no, cercano il film di denuncia ma non riescono a percorrerlo, cercano il film intimista, vedi il personaggio di Giallini, e neanche riescono a percorrerlo. Mi sembra proprio un problema di scelte, di indecisione, un'incapacità di andare oltre, di approfondire sia l'aspetto emotivo sia l'aspetto sociologico, e ci si accontenta della realtà. Ma se ci si accontenta della realtà, allora abbiamo un genere come il documentario che può essere raccontato e può raccontare molto molto meglio una storia del genere. Qui invece sembra quasi un depotenziamento, cioè quando scopri che la storia ha una forte attinenza con una realtà avvenuta o addirittura in corso, quasi rimani deluso, perché l'impressione è che Storie Sospese l'abbia in qualche modo banalizzata, allontanata dalla realtà, non abbia fatto il processo inverso che voleva Chiantini. Quindi purtroppo un interessante esperimento, nel senso che è giusto anche parlare di questa come dire, ferita nell'animo collettivo, che è quello che tu chiamavi il fronte del no, però se lo affronti un tema di questa complessità devi affrontarlo bene, proprio perché non è facile raccontarlo, Storie Sospese non ci riesce, diciamo che rimane proprio un film sospeso, ecco. E allora, Storie Sospese ancora fra le proposte al cinema. Fra poco, dopo la viabilità, torniamo insieme con l'ultimo dei film che abbiamo scelto in programmazione, che si intitola Operazione Uncle di Guy Ritchie, e poi tutto il cinema da vedere in casa. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, un altro film tra quelli che sono arrivati in sala in questo fine settimana. Vogliamo presentarvi, per dare un'occhiata a come sono partiti i nuovi film in sala, mentre i Minions stanno dominando il box office come se non ci fosse un domani, dovremmo avvicinarci ormai. La prima settimana hanno fatto quasi 8 milioni di euro e poi ormai siamo, secondo me, vicini agli 11-12 milioni di euro prima di questo weekend. Città di Carta è partito abbastanza bene al secondo posto, Southpaw, di cui abbiamo parlato, è quarto, Sinister 2, che è un ottimo horror, è quinto, e Operazione Uncle è al sesto posto. E proprio di Operazione Uncle vogliamo parlare con Boris Sollazzo, perché si tratta di un film che ha in macchina di regia Guy Ritchie, che è anche una garanzia di ritmo, di divertimento. Qui siamo negli anni della Guerra Fredda, con un agente della CIA e uno del KGB costretti a, diciamo, diventare amici in qualche modo. Di recente abbiamo scoperto l'esistenza di un'organizzazione criminale internazionale con legami con degli ex nazisti. Corre voce che abbiano una bomba atomica. Dobbiamo per forza lavorare insieme per infiltrarci nell'organizzazione. Napoleon Solo, l'agente più operativo della CIA. Ilya Kuryakin, KGB, il più giovane a entrare e il migliore dopo 3 anni. L'America si mette a fare squadra con la Russia. Potremmo vedercela un tantino brutta. Non sei un fenomeno sulla questione delicatezza, vero? Insomma, la chiave l'avete capita: rispolverano il vecchio nemico comune, cioè i nazisti, e il film è praticamente fatto. Boris? Assolutamente sì. Questo poi si infila in un sottogenere che adesso è molto in voga, che è quello della presa in giro della spy story, no? Se da una parte hai Alfred con la talpa, dall'altra hai tantissimi film che cercano, non ultimo Paul Feig, invece di prendere un po' in giro questa incredibile sovrastruttura spionistica che soprattutto nel secondo dopoguerra in alcuni momenti ha dominato il mondo anche con vicende grottesche. Si pensi a ciò che ha fatto la CIA nella Baia dei Porci e al pensiero di quanto sarebbe divertente raccontare quella vicenda con i dettami del grottesco, perché di situazione grottesca si tratta. Guy Ritchie, io confesso subito, per onestà verso gli ascoltatori, che ho un debole per questo regista, nel senso che trovo che il suo modo di raccontare sia qualcosa che è estremamente ancorato a tante citazioni, a un amore per il cinema, a una visione e a un immaginario molto moderno, e allo stesso tempo però, come forse non è riuscito a fare in un altro contesto Zack Snyder, anche la capacità di essere originale, cioè di dare una cifra stilistica costante e riconoscibile al suo cinema. È difficile che voi vediate un film di Guy Ritchie senza capire immediatamente che è un film di Guy Ritchie, facendo zapping sulla televisione, e questo è un pregio. A volte diventa una prigione, perché inevitabilmente ci si innamora dei propri pezzi. Ritchie, secondo me, in maniera molto spensierata, in maniera molto divertita, riesce costantemente a non cadere nella ripetizione, a non cadere nella volontà di mostrarsi, proprio perché, come i grandi registi di un tempo, il suo ultimo obiettivo è quello di intrattenere, di divertire, e probabilmente anche di divertirsi lui stesso. E Operazione anche, tra l'altro, è anche un remake, altro sottogenere percorso come pazzi in questo ultimo periodo. È un remake molto sui generis, perché sostanzialmente dell'originale a poco o nulla. E qual è l'intuizione, secondo me, straordinaria? Mentre tutte le altre, tra virgolette, parodie spionistiche si riferiscono alle spie moderne, qui si prende un modello antico, il modello più iconografico, cioè la spia americana e la spia russa, e si guarda col senso del ridicolo moderno, senza mai arrivare alla parodia vera e propria. In questo c'è forse un'ottica, attorialmente parlando, sellersiana, ma divertendosi, ridendo anche di se stessi e portando avanti così un doppio piano narrativo e visivo che è molto interessante. Da una parte qua abbiamo una storia spionistica vera e propria, anche appassionante, anche affascinante, e dall'altra tanto umorismo, tanta ironia e questa capacità di regia straordinaria di Ricci, che non ti lascia riposare un attimo, non ti lascia annoiare un attimo. Tra l'altro Ricci dimostra un altro dei suoi talenti, e qui chiudo, che è quello della scelta degli attori. Di solito era molto bravo nella scelta degli attori uomini, nella scelta delle sue icone. Qui secondo me è ancora più bravo invece nella scelta delle donne. Prende Elisabeth Debicki, che avevamo visto già nel Grande Gatsby, che a mio parere sta per diventare qualcosa di più di una star, perché ha il raro pregio di non volersi somigliare a nessuno, di non voler somigliare a nessun modello, ma di essere se stessa e di dare sempre qualcosa in più. E Alicia Vikander, con cui ormai sembra non potersi più fare un film, e si capisce anche dal suo talento. E il resto, appunto, è Ricci, e questo vuol dire che il resto non è mai noia. E allora, questo è il film, l'ultimo film della settimana del quale vi abbiamo parlato, Operazione Uncle, nei cinema italiani. Boris, buon proseguimento a Venezia. Noi ci sentiamo nella puntata speciale di domani, domenica, per raccontare ancora un po', stavolta, come stanno andando lì le cose veneziane, con un attimo di profondità e di tempo in più. E poi settimana prossima, ovviamente, qui come sempre, a raccontare il cinema che c'è in sala, alla Rosa Purpurea. Alla prossima e buon cinema. E dal cinema in sala al cinema in casa, noi cominciamo subito con il risolvere il nostro game della scorsa settimana. Quasi dimenticavo, rammenta, la magia avrà una sua durata. Quando sentirai l'eco dell'ultima campana, all'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo terminerà e tutto tornerà come era prima. Beh, era come scrivere nome, cognome, indirizzo del nostro gioco della scorsa settimana. L'indirizzo giusto è Cenerentola. Ovviamente era il film dello scorso weekend, il film misterioso, poco misterioso, che avete indovinato in molti. Era il Cenerentola live action, quello della scorsa stagione, che arriva in Blu-ray sfavillante da Disney. I nostri vincitori sono Alberto Benedetti di Verona e Stella Manghi di Parma. Sono stati i due ascoltatori più veloci a rispondere, appunto, Cenerentola. Allora, noi ne parliamo con Claudio Bartolini di Film TV, che è già in collegamento. Ciao Claudio. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontaci un po' questa Cenerentola on video live action. Ma è un film piuttosto interessante, Cenerentola di Kenneth Branagh, con interpretato da Lily James e Kate Blanchett, e particolarmente interessante lo sarà tra l'altro nel formato Blu-ray, poiché gode di una tavolozza cromatica davvero di qualità, davvero ipermoderna, ridà lustro alla fiaba al grande classico della Disney originale di animazione, come ricordiamo, e in Blu-ray sarà proposto in ben tre versioni differenti, tra l'altro il Blu-ray standard, il cofanetto steelbook, dunque in metallo da collezione, e il cofanetto in combo con il classico originale. Un film da non perdere, un film adatto a grandi e piccini, costato tantissimo, 95 milioni, e del tutto degno però di portare avanti una tradizione che sembra non aver fine, quella di Cenerentola. E allora Cenerentola, assolutamente una delle cose più belle che si sono viste negli ultimi anni da casa Disney, con un'interpretazione e anche una scenografia, costumi davvero sfavillanti, arriva in un video in Blu-ray per i nostri ascoltatori. Claudio, un paio di segnalazioni dalle programmazioni televisive della prossima settimana, proprio legandoci alla Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo detto prima, anche con Gianluigi Negri, uno dei film più attesi è quello di Marco Bellocchio. Ebbene, c'è la possibilità di vedere un paio di film del passato più o meno recente di Bellocchio in televisione la prossima settimana. Certamente, dici bene, domenica 6 settembre e lunedì 7 settembre la Rai non si fa sfuggire l'occasione di proporre un dittico bellocchiano, anche legandosi appunto a Sangue del mio sangue, che è a Venezia. Si comincia domenica 6 su Rai 5 alle 23.05 con L'ora di religione, lo ricorderemo tutti, un film del 2002 interpretato da Sergio Castellitto, un film denso, rigoroso, che è una dichiarazione di morale, ma in cui Bellocchio riversa tantissime suggestioni personali. Si continua il lunedì 7 questa volta su Rai Movie alle 21.15 con i pugni in tasca. Invece un salto nel tempo al 1965, quando Bellocchio esordì al cinema in un bianco e nero davvero plumbeo, davvero criptico, in un film denso, politicamente aggressivo, pieno di rabbia, pieno appunto di pugni che nel caso di questo film spesso non rimangono in tasca ma vanno dritti sul volto e nell'animo dello spettatore, nella coscienza politica dello spettatore. Un Luca Stell che poi diventerà icona della controcultura, un film che è un ritratto di una borghesia in nero sull'orlo della follia. E allora grazie a Claudio Bartolini, che ritroveremo nella nostra puntata speciale di domani alle 14 da Cibus Expo Milano, ospite in live action, anche lui come Cenerentola. Ciao Claudio. Ciao Franco, a domani. E siamo arrivati alla fine. Io voglio ricordarvi che un film di cui abbiamo parlato settimana scorsa, Mirafiori Luna Park, è andato benissimo a Torino questa settimana ed è sbarcato anche a Milano al cinema Beltrade. Vi consiglio di andarlo a vedere. Grazie per averci seguito. Ci sentiamo domani alle 14, puntata speciale da Expo. Un saluto da Franco D'Assisti.